mi permetterete, spero, di non avere un'opinione particolare sulla figura del nuovo Papa. Certo, io personalmente avrei preferito che non fosse stato eletto responsabile dell'ex Sant'Uffizio, e dal fatto che nella prima dichiarazione pubblica abbia voluto definirsi un umile operaio, un umile lavoratore nella vigna del Signore, non ho tratto molta consolazione, perché quell'espressione, nonostante il tono tra il populista e il geologico, trae dai precedenti biblici un significato abbastanza inquietante, visto che nei sacri testi la funzione principale di chi in tale vigna lavora è quella di estirparne gli sterpi. Tanto è vero che Dante la usa nel suo elogio di San Domenico e nel dodicesimo del Paradiso, 86 e seguenti, la usa per alludere all'Inquisizione e alla crociata contro gli Albigesi, che resta uno dei più efferati massacri noti alla storia. Anche la scelta del nome, vi dirò, mi ha lasciato in un certo senso perplesso. In fondo, a parte i riferimenti al santo patrono d'Europa, su cui non saprei dire, e quelli alla persona di Papa della Chiesa, che definissi la guerra un'inutile strage, ma in linea generale non diede una grandissima prova di sé, anche se va detto che il compito di risollevare la Chiesa dopo i disastri del pontificato di Pio X era da brividi, a parte questo ci vuole una ben alta opinione di sé per definirsi con un nome parlante così impegnativo. Il compito del vicario di Cristo, ne converrete, dovrebbe essere più quello di benedire gli altri che di benedire se stesso. Ma queste, in definitiva, sono fisime mie. I cardinali fanno la loro scelta in base alle considerazioni che loro considerano prioritarie e non si preoccupano certo delle perplessità dei laici, soprattutto di quelli sofistici come me. E visto che almeno in teoria siamo in regime di separazione tra lo Stato e la Chiesa, ci si potrebbe persino azzardare a dire, con una forzatura ottimistica, che sono affari loro. Affari nostri invece sono i comportamenti della società secolare di fronte all'augusta figura. E ammetterete che da questo punto di vista queste due prime settimane di regno di Benedetto XVI non sono propriamente incoraggianti. Non alludo tanto alle parole dei potenti, alle dichiarazioni pubbliche, che sono rimaste, mi sembra, nell'ambito della cortesia istituzionale, né al giubilo ostentato delle folle, ai cori da stadio che hanno accompagnato le prime uscite del pontefice, anche quando erano dettate da un'esigenza banale come quella di organizzare il trasloco delle proprie masserizie. A questo siamo abituati, visto che nella società dello spettacolo e dell'omologazione quella di confondersi nella massa resta paradossalmente una delle poche possibilità lasciate a chi voglia rendersi in qualche modo visibile, e confondersi in una folla osannante, in fondo, è più facile e meno pericoloso che provare ad espugnare la Bastiglia, attività a cui le masse si dedicano sempre bene, d'altronde quando ci provano poi gli si dà ampia ragione di pentirsene. Io penso piuttosto al lavoro che sulla figura del nuovo Papa stanno facendo gli operatori dell'informazione, gli strateghi dei media, che sono poi quelli che le manifestazioni di cui sopra danno notorietà e risonanza mondiale. Perché oggi, se si prescinde dalle metafore canine impiegate da pochi colleghi spiritosi ma irriverenti, è in corso una grande attività pubblicistica di rettifica dell'immagine papale. Il cardinale Ratzinger era il cardinale Ratzinger. Lo si poteva definire senza danno un arcigno difensore dell'ortodossia, come a dire un discreto reazionario, un nemico della modernità, come ben si diceva d'altronde al suo incarico, a chi gliel'aveva conferito e a tutta la situazione della Chiesa oggi. Di Benedetto XVI, chissà perché, non si può dire niente di simile. Tutti ci assicurano che ci stupirà. Non è mica vero, dicono, che sia sempre stato quel reazionario che si vocifera. Al concilio era tra i più progressisti, e non è colpa sua se poi gli studenti contestatori l'hanno fatto incazzare a Tubinga. E poi è timido, gli piacciono i gatti, accarezza i bambini, suona il pianoforte, sorride sempre. Alla Hitlerjugend lo hanno iscritto d'ufficio e lui non poteva farci niente, poveretto. Vedrete che novità in serbo sui rapporti religiosi, interreligiosi, e sulla missione dei divorziati ai sacramenti ha delle idee straordinarie. È modesto, perché ha detto lui che a farsi eleggere non ci pensava neppure, insomma, che cosa si può volere di più? Su quanto riserva il futuro notoriamente non si può mai scommettere. Ma è abbastanza ovvio che a parte le notazioni sulla Hitlerjugend in sé ineccepibili e quelle sulla timidezza che non contano molto perché la storia conosce parecchi casi di timidi che per reazione ne hanno fatte di ogni, si tratta di considerazioni abbastanza infondate, insomma. E sono tutte illazioni tratte su elementi deboli, un misto di speranze personali, di elementi di colore e di petizioni di principio. Aria fritta, in sostanza. Belle parole che non tengono conto né delle tendenze dimostrate dall'uomo che è stato prefetto della sua congregazione ininterrottamente dal 1981 e ha avuto quindi quasi un quarto di secolo per far conoscere le sue idee, né dei motivi che in tutta evidenza ne hanno determinato l'elezione. Ed è strano perché se la Chiesa, a modo suo, ha avuto coraggio, in una situazione difficile perché voitiva o non voitiva la situazione del divino nel mondo moderno è obiettivamente difficile, ha deciso di affidarsi a una figura ben caratterizzata, affidandole l'ovvio mandato di tirare avanti senza compromessi sulla sua strada, la maggior parte dei laici di questa evidente caratterizzazione sembra non volerne proprio sapere. È molto meglio attaccarsi a ogni costo alla figura del Papa buono, del conciliatore, di quello che farà contenti tutti, che annullerà nel suo abbraccio ogni futile contrapposizione tra progressisti e conservatori, che curerà le relazioni pubbliche, darà agio ai bravi giornalisti di scrivere tanti belli articoli e di pubblicare tanti bei libri sulla sua umanità e il suo zelo paterno. In 11 giorni, di fatto, di agiografie del genere in edicola ne sono già apparse 4 o 5. Tutto questo, vi dicevo, non fa presagire niente di buono. Non tanto per la Chiesa, che con i tipi come lui se l'è sempre cavata benissimo, quanto per un mondo laico che non perde occasione per dimostrarsi perennemente incerto sui propri valori, nonché pericolosamente incline a dimenticare che gli sterpi, estirpati dagli umili lavoranti nella vigna del Signore, in genere finiscono in un allegro falò. E speriamo che questa volta sia solo metaforico.